בלו טיים. בלו טיים לייב. בלו טיים. לייב. Oggi è giovedì 12 settembre, questa è Blu Radio Veneto, ovviamente con la voce di Agostino Spolaore e anche con quella di Maurizio Calzavara. Ciao Maurizio. Buonasera Agostino, buonasera a tutti i nostri ascoltatori, come sempre nella Fossa di Leoni anche questa sera. Ancora di più. Ancora di più. Questa sera sei pieno pienissimo di cavi, cavetti, strumenti, strumentini. Ma è bellissimo così, il live sono anche i cavi, i cavetti, gli strumenti e le persone chiaramente. E anche di un gran bel ritorno. Li presentiamo tra pochissimo, prima i nostri dati. Vi ricordo le nostre frequenze, 88.700 e 94.600 MHz in modulazione di frequenza. Poi ancora, se ci volete ascoltare in streaming, vi ricordo il nostro sito, cioè www.bluradioveneto.it. Lì ci ascoltate assolutamente tranquillamente in diretta, qualsiasi momento che volete fare della giornata, quindi 24 ore su 24. E poi all'interno del nostro sito trovate anche tutte le informazioni inerenti alla nostra regione e anche le recensioni sugli artisti e quant'altro. Insomma, è un sito da sfogliare con molta calma, perché trovate di tutto e di più. E poi ancora il nostro numero telefonico in studio è lo 049 875 6423, mentre per i vostri sms, se li volete mandare questa sera, perché no, vi ricordo il 346 23 20 033. Saranno felicissimi e onorati di rispondere alle vostre domande se ne avete, oppure se volete risparmiare i soldini di un sms, vi ricordo le nostre pagine su Facebook, semplicemente Blu Radio Veneto, una, l'altra è Blu Radio Veneto Rock Wave, gestita da Alberto Prisco, che salutiamo, il nostro direttore artistico. E poi ancora potete scrivere anche nella mia pagina, cioè Agostino Spolaore, tranquillamente io leggerò e rivolgerò le domande, che insomma le curiosità che voi volete fare a questi grandi amici che sono tornati dopo un anno circa di distanza con il loro nuovo disco, si chiama Reflection, sono i Teodasia. Ciao ragazzi. Ciao. Ciao a tutti. È un onore per me avervi qui di nuovo a distanza di un anno. Poi davanti a me c'ho Francesco, bello come il sole che si sta aggiornando con le sue tastiere. Allora, a distanza di un anno, Maurizio, abbiamo di nuovo qui questa band che è così straordinaria, così eccezionale dal punto di vista musicale, ci fa un grande onore. Sì, a distanza di un anno ritornano con un disco che si chiama Reflection, che mi piace particolarmente per un motivo. Reflection ricorda, senza l'esse, Reflection dei Pentango, un gruppo storico del folk inglese, e qualcosa di folk c'è anche in questo disco, vero? Diciamo che la matrice Ti avvicino il microfono. Alzati un po' il microfono. Buonissimo, proprio così. Bravo. Okay. Allora, intanto un carissimo saluto a tutti i telespettatori. Noi questa radio, sapete, la amiamo moltissimo. Grazie Agostino. Sì, questa sera facciamo una cosa un po' spartana, cioè siamo qua anche, che prima parlavamo di scalette, cose eccetera, è bello anche appunto improvvisare anche su in questi momenti. Cioè, hai due tastiere. Comunque, tu stasera, sì, hai due tastiere. Due tastiere, non tanto per i suoni, quanto per la pesatura dei tasti. Certo. Comunque, cosa stavamo dicendo? Scusami. Parlavamo di questo nuovo approccio. Esatto, allora questo nuovo approccio è un vecchio approccio, nel senso, noi non sta per uscire un nuovo album, ma sta uscendo un long EP, cioè sono alcuni brani, sono 8-9 brani, giusto? E un EP abbastanza corposo. Sì, come un EP corposo, non è proprio un secondo disco, però che di brani vecchissimi che avevamo scritto molti anni fa, e avevamo fatto un vecchio demo che poi è andato smarrito in un certo senso. Comunque, questi brani erano proprio l'inizio, la composizione, l'inizio di Teodasia, le origini, ecco. Le origini, parliamo quindi del 2006, alcuni brani sono anche un po' prima, eccetera. Non avevo ancora le capacità per... anzi, questi brani sono nati ancora quando non c'era praticamente quasi nessuno di loro. C'eri solo te. Sì, ancora all'epoca. Però, appunto, grazie agli anni trascorsi e poi coi ragazzi, eccetera, siamo... Perché questa idea, Francesco, di riprendere i pezzi vecchi e riprenderli... riaggiornandogli, dando una nuova colorazione, possiamo dire questo. Beh, allora diciamo che l'esigenza in sé è stata data dal fatto che avevamo comunque una band ha bisogno di storia. Certo, d'accordo, assolutamente. E quindi se non i vecchi brani, i primi, il primo approccio, infatti questi brani sono molto diversi dai brani di Upwards, è bello il fatto che comunque ogni disco è a sé, nonostante sia sempre lo stesso marchio, cioè Teodasia. Ogni disco, cioè noi lavoriamo sempre, ogni disco vogliamo fare qualcosa di diverso, pur rimanendo, pur non uscendo, pur appunto la matrice rimane la stessa, perché la definizione che sì. hai dato l'anno scorso, l'orchestrazione è l'attrattiva principale del sound, rimane, non certo, se ne va. Certo. L'orchestrazione esiste, epica, titanica, corposa, c'è sempre, però c'è un'altra prospettiva, un'altra visione. Esatto. E la prospettiva appunto l'abbiamo raggiunta grazie alla fondamentale di gruppo, e cioè quindi dal vaneggio vecchio mio radicato nelle mie origini nel sound nightwishiano e tutto quanto, a un nuovo sound, sempre dei vecchi pezzi intendo, molto più maturo. Ok, quindi certo. grazie. E se infatti ragazzi, se vogliono dire qualcosa appunto su questa lavorazione che è stata difficile, questo io li volevo anche presentare. Ah, beh, sì, mi pare. Non abbiamo ancora fatto i nomi. Allora abbiamo alla chitarra Fabio Compagno. Ciao a tutti. Alle tastiere, che però stasera suona la chitarra, abbiamo Michele Munari. Ciao, ciao ragazzi. Ti hanno sfrattato stasera, Michele, vero? Sì, ma non mi dispiace ogni tanto prendere in mano l'ovation, insomma. Al basso invece c'è Nicola Falcione. Ciao. Alle tastiere avete poc'anzi sentito, ma lui è il batterista della formazione e anche compositore, ed è Francesco Gozzo. E ho tenuto per ultima la nuova new entry, un'amica che conoscevo ancora prima di sapere che era all'interno dei Teodasia, e che con molto piacere ve la presento, si chiama Giulia Rubino. Ciao Giulia, benvenuta. Ciao a tutti, grazie. Finalmente ci conosciamo, Giulia. Finalmente, è arrivato il momento. Poi insomma, poi la riavremo con un'altra band, ma questo ne avremo modo di parlare. Sì, sì, sì. Allora, stavi dicendo, Francesco? Sì. Voleva dare un giudizio da parte dei ragazzi, vero? Sì, sì, sì. E infatti sarebbe bello che lo facessero i ragazzi. Beh, per quello che riguarda la lavorazione di Reflection, c'è da dire che, per esempio, io sono arrivato quando il vecchio demo era già stato prodotto, e mettermi a lavorare su quei pezzi, per me è stato molto importante. La matrice dei pezzi, cioè le idee originali, erano molto buone. E le abbiamo rilavorate in base anche all'esperienza maturata con Upwards e anche un po' a una sorta di nuova direzione che vogliamo dare al nostro progetto. Bene, perfetto, hai spiegato benissimo com'è l'idea tua. Bisogna dire che eravamo anche curiosi un po', perché avevamo curiosi di cosa voleva fare Francesco. Quello sempre. Okay. No, nel senso che avevamo questi pezzi dal 2007-2006 che erano già stati arrangiati, erano già usciti con le capacità dell'epoca e certo, con quelle idee che c'erano. Esatto. Pensavamo, ci siamo chiesti che cosa poteva venire fuori lavorando adesso dei pezzi che erano le nostre origini, erano l'inizio di... Io mi ricordo che quando sono entrato nei Teodasia è proprio nato così, con Francesco che mi ha detto: vieni a suonare nei Teodasia, settimana prossima andiamo a registrare un demo. Ah, perfetto. È proprio nata così. E lui ha risposto: bevo una birra e che ne parliamo. Esatto. Perfetto. E quindi abbiamo proprio voluto riprendere in mano le nostre, i primi pezzi, e vedere, dopo aver fatto il primo disco, tutto quello che abbiamo fatto, se erano ancora validi, proponibili. Visto che i pezzi erano buoni, cosa eravamo in grado di farli diventare, insomma. Caro tastierista, prestato all'Ovation, che bella l'Ovation, è una cosa meravigliosa. L'Ovation è sempre una cosa meravigliosa. Dimmi allora, ti pare... Dobbiamo dire cos'è l'Ovation. L'Ovation è una grande chitarra, una chitarra meravigliosa. Un suono, fammela sentire un secondo, questo suono meraviglioso dell'Ovation. Sempre un bellissimo suono. Quante ballate folk sono nate con l'Ovation? Allora, Quanti amori sono nati con l'Ovation? Bene, ok. No, è stato molto interessante tante volte fare il paragone, guardare il vecchio demo, cioè i pezzi come erano stati arrangiati prima di Upwards, i vecchi pezzi, con quelli nuovi, e si sente proprio una differenza abissale anche a livello proprio compositivo, ma se vogliamo anche proprio di produzione. Upwards io non l'ho fatto, però i ragazzi si vede che proprio hanno capito, cioè è sempre più matura la cosa. Esatto. E questo si vede nettamente. L'idea molto quindi bella di Francesco era la maturazione, questi vecchi pezzi, riprendendoli con la maturazione di adesso, del 2013. E a mio parere è stato un ottimo risultato, perché è venuta fuori una cosa storica sotto un certo punto di vista, e in più con la maturità del 2012, del 2013, che ha prodotto questo grande, questa nuova questo proposta, bel disco, questo... questo disco nuovo. Sì, siamo molto contenti, sì. Bene, ascoltiamo la title track, che ne dite? Sì, io volevo dire una cosa, volevo dire che in studio c'è Paolo, un nostro carissimo amico, e mi fa piacere che sia venuto fino a qua. 160 km come, per venire come, non solo, lui ci ha seguito in tutti i concerti estivi, è stato sempre presente gli anni passati e quindi... io volevo appunto ringraziarlo qua in radio e dedicargli il primo ascolto che andremo a fare. E l'ascoltiamo, Reflection. Thank you. Blue Time. Blue Time. Blue Time Live. Blue Time. Live. Il titolo di questo disco è Reflection ed è anche il titolo di questa canzone, quindi abbiamo ascoltato la canzone, tra virgolette, title track, come piace dire tanto a Maurizio, insomma la canzone che dà il titolo a questo nuovissimo disco dei Teodasia, che vi ricordo è un'anteprima assoluta, vero Francesco? Assolutamente. Non l'avete ancora proprio, non conosce nessuno. Qualcuno sa qualcosa ma niente di... Noi sappiamo di Stay, esatto. Che gira su... Esatto, su, esatto. Su YouTube, sì, sì, sì. No, c'è stato il singolo che è uscito intorno a che mese era, ragazzi? Il singolo aprile. Giusto? Sì. Ecco, e conteneva appunto tre brani, tra i quali appunto Stay, che è una canzone dance anni 90 fatta da DJ Sash. E ho voluto provare a fare questa follia di prendere un brano dance anni 90 e trasformarlo in un brano del nostro genere. È proprio una follia, proprio. È proprio una follia, però io sono molto contento di come è venuta. Non è il discorso se il video ha fatto molto successo, la canzone... Io sono veramente molto contento di come è venuta questa sperimentazione. È stato visto moltissime volte. Sì, sì, sì, sì, ha quasi 10.000 click, 8.000, 9.000, mi ricordo. Comunque... Ma questo è anche sinonimo che voi siete molto, ma molto seguiti, comunque sia. Sì, dai, insomma, all'interno del... Non fare il modesto. No, vero, essere conosciuti è anche un'altra cosa. Sì. No, vabbè, però, insomma, no, vabbè, vi conoscono, dai, diciamo che abbiamo lavorato in maniera tale appunto... cioè, noi non è che puntiamo un underground, noi cerchiamo veramente di, di puntare a un mercato internazionale. Ma solamente perché vorremmo veramente esprimere la nostra musica al meglio, al massimo, e avere la possibilità di diffonderla nel mondo. È un po' questo il nostro sogno. Comunque, senza che appunto mi divulga, stavamo... Sì, parlavamo di Reflection, che è la da title track. Noi della redazione abbiamo deciso di... cioè abbiamo scritto questo. Il folk, il prog e il rock sono le tre matrici che compongono questo pezzo, secondo me. Innanzitutto è la traccia numero 4, la traccia centrale delle 8 tracce, o le 9 tracce. Quindi la traccia centrale è già importante nella scaletta, una traccia centrale. Dà un certo peso, un certo significato. E fondere il folk, il prog, il rock e la vostra immagine. Questo è Reflection, secondo me. Sì, assolutamente. Perché hai voluto questa Reflection in questa maniera, in questo sviluppo? Come l'hai immaginata quando l'hai scritta? Allora, Reflection è proprio le origini dei Teodasia. Mm. Le origini dei Teodasia arrivano dal fatto che a un certo punto i miei ascolti musicali si sono trasformati da un rock grunge americano a un metal finlandese. Mm. Già dire metal finlandese è una cosa molto importante. Sì, quali sono i metallari finlandesi? Io... Li conosci solo te o c'è qualcun altro che li conosce? No, diciamo anche che... la Giulia. Bene. Allora no, c'è una gran presenza. tutti qua nei Teodasia abbiamo una bella cultura sui gruppi nordici, metal, eccetera. Eh beh, certo. Però giustamente ci sono anche altre... Sì, ma dobbiamo dire che i gruppi nordici metal derivano da altri gruppi che non erano assolutamente nordici. Assolutamente, c'è anche il discorso degli Iron Maiden stessi. Esattamente. Hanno iniziato tutti. Sì, ma qua non ci sento proprio dell'hard, assolutamente. No, io non ci sento nei Teodasia, almeno nei Teodasia di questo disco dell'hard. Mm-hmm. L'hard si è un po' dipanato, si è un po' allontanato per dare un'altra visione, un'altra ottica musicale del gruppo. No, Dimmi. Ho due cose da dire su questo proposito, che è una riflessione tra l'altro che ho fatto anche ultimamente, perché mi si è anche stato abbastanza criticato il fatto che i Teodasia non siano così tanto hard rock, così troppo... Perché è stato criticato, Francesco? Perché a volte fai un lavoro che, perché sia giusto, cioè non puoi essere né troppo di qua né troppo di là. Allora, ho capito. Non puoi, cioè, se i metallari ti dicono che sei troppo poco leggero, cioè troppo leggero, troppo leggero per loro. E per il pop è una cosa troppo forte e... Per il rock, cioè insomma, non sei mai... Capito? Sei Teodasia e basta. Esatto, che è una cosa bellissima, fondamentalmente. Però... C'è questa prerogativa, c'è questa difficoltà Assolutamente. Allora tu hai cercato, secondo me e secondo questo pezzo, di trovare una tua via. Sì, e sì, questa sì. via è presentata. Ho anche un aneddoto appunto. Dimmi, su, vai, vai. Sulla canzone che prima mi domandavi come... Sì, come è nata, come è partita dalla tua mente. Sì. Allora, praticamente io ero molto piccolo, cioè forse anche una delle prime. Mm. Addirittura quando ho conosciuto Michele, giusto Michele? Quindi si parla di un po' di anni fa. Si chiamava sì, sì, Magic Mirror una Magic volta. Mirror. No? Magic Mirror. Adesso fa. Si chiama, eh sì, una vita fa. E all'epoca appunto mia mamma, che ha diploma di conservatorio ed è bravissima appunto a suonare, eccetera, mi aveva spiegato... I giri medievali sul re minore. Vedi. Quindi quando mi sono messo a provare un giro medievale, mi era venuto fuori questo appunto cos'era? Allora i Blackmore Knight che io ho citato nei riferimenti iniziali non sono proprio da buttare. Eh no, assolutamente. Eh no. Cioè partono anche da quelli. Perché sì, l'input sì, arriva sì. anche a quelli. Li avete magari mai visti dal vivo? No. Beh sì. Se sentite qualcosa in giro, avvisatemi che vengo anch'io con voi. Perché adoro i Blackmore Knight. Allora, tua madre ti ha dato, tua sì, mamma ti ha dato questo input. E appunto abbiamo iniziato con questo tema che ho appena fatto e che quello... Sì, certo. E da lì ho, hai sviluppato, ho sviluppato tutto il discorso. E, prima appunto era venuto col terzinato una cosa... dopo in una seconda stesura era venuta... diciamo simile a quella là attuale, che abbiamo sentito. E allora sono divise, una si chiama Reflection, una si chiama Mirrors. Ho capito. Che Mirror sono... è praticamente la base di Reflection. Esatto, poi si è sviluppato. Esatto. In un certo senso sì. Solamente che adesso abbiamo avuto le capacità per riuscire a farle con una buona produzione, perché certo. la produzione è importantissima. Ah, soprattutto nei gruppi perché... prog è fondamentale, sì, penso, sì, la produzione. Sì, sì, assolutamente. Noi siamo molto attenti a orchestre, tastiere, groove di basso, chitarra, batteria. E piccolezze, trilli, certo, cavolate, certo. tamburi, tutto fa parte. E basta. E basta. Hai spiegato abbondantemente che cosa vuol dire Reflection, chiaramente. Senti, prima di Reflection c'è una canzone che è praticamente la versione strumentale di Reflection, mi dicevi prima, vero? Sì, Francesco? Sì. Vuoi che la facciamo sentire subito così tanto per... Ma sì, dai. O volete fare qualcosa dal vivo? Beh, facciamo sentire così sono freschi di Reflection e poi possiamo... Tanto dura sì, neanche due minuti. Sì, sì, è solamente un intervallo orchestrale proprio molto atmosferico, crepuscolare. Che a voi piace tanto fare. Esatto. L'ascoltiamo, Mirrors. Blue Time Live. Blue Time. Live. Sì, Mirror chiaramente è l'intro. Possiamo dire intro? È sì. sbagliato. Anche se c'è un intro prima, cioè c'è un intro precedentemente, però possiamo definirlo come l'intro. Certo. E c'è una musica molto celtica, soprattutto la tua percussione è celtica, sì. Come fosse una band che trasporti, una certo, certo. Specie di pellegrinaggio, possiamo dire, celtico. Non eravamo neanche sicuri di inserire in Reflection Mirrors, ma è stata proprio la percussione... La tua percussione, cioè proprio sì, il tuo modo di percuotere lo strumento che dà l'intonazione al pezzo. Certo, me. Assolutamente. Io l'ho sentita così. Sì, sì, sì, sì, sì. Poi abbiamo usato dei plugin molto interessanti, abbiamo preso appunto dei plugin di tamburi. Spieghi per chi non sa che cosa sono i plugin. Sì, praticamente, beh, adesso parlo sempre io. No, no, possiamo far sentire anche la voce degli altri, ma così in soldoni, in qualche secondo, cos'è il plugin? Nessuno vuole spiegare. Allora, nessuno sa cos'è il plugin, lo spiego io. No, no. Allora, praticamente... ci piace sentire come lo spiega lui. per quello. Sì, sì, questa è la scusa, però adesso sarebbe da farselo spiegare prima da lui. Adesso si divulga un po'. Non me ne fanno passare neanche una. Beh, leader deve essere così. Il boss. C'è poco a fare. Dimmi. Boss. Ah, beh, almeno è riconosciuta la cosa. Speriamo, al manco quello. Cos'è che stavo dicendo? Il plugin. Praticamente, quando tu hai il MIDI, d'accordo, che è una frequenza, a quella frequenza puoi inserire qualsiasi tipo di suono. Ho capito. E i plugin sono proprio dei suoni che sono dentro a dei programmi che appunto stanno dentro. Aiutatemi un po'. Stanno dentro al computer e danno una certa sonorità, praticamente. Sì, sì, sì. Ho capito. Esatto. Si può scegliere il suono da applicare alla determinata frequenza, poi perfetto, scegliere il tipo di tamburo, il tipo di... Certo, certo. Diciamo perfetto, che di solito questi tipi di programmi sono dentro programmi ovviamente musicali. Chiaro, sì. E quindi tu puoi caricarti ad esempio i plugin di pianoforti e quindi hai tutta una fila di suoni di pianoforte eccetera e avanti così per tutti gli strumenti o comunque effetti speciali così. Certo, certo. Non suonano come quelli veri, però suonano bene. Bene, bene. Ok. Di solito. Anche loro suonano bene dal vivo, Maurizio, secondo decisamente te? È l'ora giusta, 21:29. L'ora giusta per sentire dal vivo, in acustico, i Teodasia con questo nuovissimo disco che deve ancora uscire, pensate, un'anteprima di Blue Radio Veneto che ci fa veramente molto molto onore. Sì, io volevo dire appunto cosa stiamo per fare. Certo. Ed è appunto la prima canzone di Reflection. Dopo l'introduzione, c'è una piccola introduzione, c'è questa canzone, si chiama Where I Belong. Ok. Thank you. Sì, ho dovuto aspettare fino alla fine. Fino alla fine. E c'è la trasformazione, chiaramente è una versione acustica stasera. Sì. Perché l'inizio di questo pezzo è molto zeppeliano, almeno nell'intro che tu costruisci. È molto acustica. È una visione pop, secondo me, questo pezzo. Io non lo so qual è il vostro singolo, non me lo ricordo, però può essere, secondo me, andava benissimo anche come singolo potenziale questo qua. Sì, di Reflection sicuramente. Ah, assolutamente, io l'ho sentito così. È una in questa versione che avete fatto stasera, con le chitarre assolutamente acustiche, con l'Ovation che dà un suono, Quanto ti piace quello? L'Ovation mi piace, è una cosa meravigliosa. Siamo in due allora. L'Ovation è una cosa meravigliosa. E poi Giulia si è comportata bene, sto pezzo è difficile. Scusa, ma dimmi. Ovation è ovazione in inglese? Sì, Ovation, può essere anche quello. Ma Giulia si è comportata bene, perché è andata su con la voce. È un pezzo facile questo, è un pezzo difficile, Giulia. No, non è facile. Devo dire che in realtà è nato quasi per caso, perché inizialmente eravamo partiti in un riarrangiamento di questo pezzo completamente diverso. Da questo? Sì, qualcosa che fosse più vicino alla versione che c'è in Reflections, esatto. Invece poi riprovando abbiamo detto, senti un po', ma perché qua proprio non stravolgiamo tutto, non cambiamo? Sì, l'avete cambiato totalmente, ripetiamo, qui siamo in versione acustica. Esatto. Però l'avete totalmente, l'avete trasportato verso il pop, ma un pop di classe, non un pop così di listening. Noi ci siamo galvanizzati perché avendo tutti appunto comunque... grandissime radici anni 80, ecco. Sì, okay. Questo pezzo ci ha galvanizzato per come ci è riuscito, perché ci ricordava appunto magari le grandi hit anni 80, di questi suoni, esatto, ecco. Un po', ecco, vieni Francesco, subito provvede, ecco. E quindi alla fine è uscita così, anche velocemente, perché una volta trovata la linea guida, che era questa, dopo è venuta via liscia. Quello è famoso, sto pezzo è famosissimo, molto, mi molto sembra famoso. Di conoscerlo. Sì, esattamente. Esatto. È una hit colossale. In ogni caso, dal vivo, cioè adesso l'avete fatto in versione acustica, poi ti do la parola Agostino. Dal vivo, come lo fate questo pezzo? Lo fate vicino al pezzo del disco o lo fate in questa versione? Se volete rispondere. Questa è una bella domanda in realtà. Io voglio sapere tutto. L'abbiamo sempre fatta come il disco finora. Però questa prospettiva però che da Giulia adesso può darsi che sì, è venuta così bene, così acustica, che ci stavamo già pensando, valuteremo il da farsi prossimamente, sì. Perché è bello, sì, anche noi possiamo farla anche cambiare due canzoni quasi diverse in realtà. Cioè cambiare in lavorazione, work in progress, sì. Come si dice, no, praticamente si può cambiando anche fare lavorando ogni tanto in un modo, ogni tanto, certo, dipende, certo. Da beh, l'acusticità in un gruppo prog è una cosa meravigliosa. Tanti gruppi prog hanno leggermente in primo momento dimenticato la grande epicità del discorso orchestrale per dare una versione pop nel senso acustico del tema. Assolutamente. No, io volevo tornare a parlare con Giulia perché insomma mi sembra giusto dare lo spazio anche a te, visto che sei una new entry in questa formazione, sei entrata da poco. Pochissimo, sì. Quanto ti è piaciuto, quanto ti piace, quanto ti piacerà stare con loro? Qua è difficile rispondere. Io mi ricordo una chat che abbiamo fatto io e te e... mi raccontavi la tua emozione pur solamente scrivendo, si leggeva l'emozione, sì. Mentre mi raccontavi questa tua nuova esperienza. Sì, assolutamente, ma cioè, la mia entrata nei Teodasia ha un che di fiabesco quasi, e se infatti mi permettete vorrei raccontare velocemente come sono andate le cose, perché in realtà io e Francesco ci conosciamo da una decina d'anni. E quindi siamo in primis amici e ci siamo sempre seguiti e assolutamente supportati nei nostri progetti individuali. Ma tantissime volte ci è capitato di incontrarci, ma di passarci a fianco. È un po' poetico, detto così. Però appunto ha un che di leggendario questa cosa, perché molte volte Francesco mi aveva chiesto, ti va di entrare nei Teodasia, vieni a fare un provino, vediamo. Però era come se non fosse mai il momento adatto. E cioè sono stata io anche, ammetto stupidamente all'epoca, a non entrare perché non era il momento giusto per me nella mia vita, non ero pronta per dare il massimo per loro. La cosa che mi piace però sottolineare è che evidentemente quando una cosa deve essere è. E con il passare degli anni noi sempre rimasti amici, sempre ci siamo venuti a vedere ai vari concerti con gli altri gruppi, si è ripresentata l'occasione. E questa volta il destino ha voluto che i tempi fossero maturi e alla fine ce l'abbiamo fatta. E quindi quando te l'hanno chiesto, gli hai sì, mi hanno sì. chiesto di coprire appunto queste, esatto, queste di Priscilla, date. Priscilla, che la salutiamo comunque, esatto, Priscilla esatto. Piazza. Ciao Priscilla. E di coprire le date appunto che avevano in programma e gli impegni futuri appunto che i ragazzi appunto volevano comunque portare avanti. Ok, io mi sono detta, beh, stavolta devo andare, cioè ci sarà un motivo se continua a succedere che mi si mettono sul mio cammino. E così è stato. Così è stato. Senti, ma che difficoltà hai trovato con questa band, a differenza dell'altra tua Made of Sun, allora, diciamo che nome. Allora, sì. intanto si tratta di generi completamente diversi, sì, perché appunto i Made of Sun sono un gruppo completamente acustico, proprio nascono acustici, mentre questo è un gruppo elettrico, metal comunque. E anche il genere è diverso, perché qui appunto si fa un rock metal epic sinfonico, è corretto? Ok. Mentre dall'altra parte facciamo un folk celtico rock, qualcosa di più soffuso, ecco, più tranquillo. E, però diciamo che le mie radici e le mie esperienze più grosse sono sempre state in ambito metal. In realtà sono i Made of Sun, che sono un esperimento anche per me. E quindi diciamo che entrare nei Teodasi, a cimentarmi nei loro brani, ecco, mi ha riportato a quella che è la mia natura, per quanto appunto nei Made of Sun io esprima un'altra parte di me. E una natura appunto che si accorda molto con i miei gusti musicali, perché appunto come Francesco anch'io sono una fan del metal finlandese stile Nightwish e compagnia, ecco, archi a manetta e... ecco, esatto. Quindi a livello di genere e di stile mi sono subito trovata benissimo, perché loro mi sono sempre piaciuti. E a livello vocale c'è sicuramente una differenza fondamentale, perché io appunto ho un range diverso vocale rispetto a Priscilla, appunto, che tra l'altro io l'ho sempre stimata moltissimo come cantante, quindi non è facile interpretare, certo, i pezzi cantati da lei, ecco. In più c'è l'aggravante che io ho un range inferiore, perché io sono un contralto, quindi ho dovuto in qualche modo calare su di me le canzoni. Però insomma, se non mi hanno ancora buttato fuori, penso di che l'esperimento stia riuscendo. E in più so che ti scateni sul palco, vero? Ah sì. Un uccellino me l'ha raccontato, ha detto che non stai mai ferma. Sì, no. È una cosa impossibile questa. Pure io stessa mi impongo dicendo: ma stai ferma, stai buona. Anche perché poi c'è non anche riesci. Un problema di fiato, quindi, cioè... Vabbè, ma sei giovane, quindi il fisico, sì, insomma, te lo permette. Insomma va bene. Cosa ci canti adesso? Adesso che cosa gli facciamo sentire allora? No, facciamo questi sono i Night. Dici, capitano, Windy Night o Close Call? Ah, giusto. Allora io direi Windy Night, perché è presente appunto in Reflection ed è interessante che anche qui abbiamo un attimino cambiato moltissimo. Bene. Ok. Procession. Tanta roba, ancora tanta roba con i Teodasia questa sera in anteprima, questo loro nuovo disco che ricordo si chiama Reflection. Questa era Windy Night, la canzone che praticamente chiude questo disco. Sì. C'è un motivo perché lo chiude questa canzone? Una scelta voluta? Sì, assolutamente. Dentro questo disco appunto trovate gli ultimi due brani, Infinity e Windy Night, che non fanno parte della stessa sessione di registrazione, ma li abbiamo registrati ancora ai tempi di Upwards, e quindi 2 anni fa, e niente, fondamentalmente abbiamo fatto lo stesso master, però appunto per farli suonare simili, ecco, questa è la cosa importante, però appunto sono in due sessioni differenti. Differenti. Sì. La cosa è questa, secondo me Windy Night la base è il ritornello. In questa sessione, proprio in questo momento, il ritornello l'avete allungato a dismisura e alla fine è diventata una jam session praticamente. Sì, sì. Due chitarre che continuavano a rincorrersi. Sì. Poi c'era la voce di Giulia che chiudeva il cerchio. Ma è un ritornello talmente tirato che il ritornello è sparito, è diventata una jam session vera e propria. Sì, sì. Per questo fondamentalmente era un brano pop, sì, vogliamo dire, è un ritornello. Il ritornello fa parte del brano pop, la melodia proprio, la fotografia esatta di un brano, sì, pop. In questa sessione, in questo momento, la sessione acustica, l'avete trasformato in un pezzo che non è più pop, ma non in senso negativo. Sì, sì, sì, è diventato un altro pezzo. Assolutamente, assolutamente. Io l'ho sentito è così. È un pezzo progressivo. Esattamente, è diventato un pezzo, soprattutto nel finale, è molto prog. Assolutamente. Assolutamente. Il rincorrersi fra i due chitarristi, col basso che preme, e tu che suoni la tastiera in piedi, scheletrico, quindi senza muoverti, assolutamente fermo, anche perché faccio degli attacchi e quindi sei proprio fermo, completamente calmo. Non suoni la batteria stasera, quindi sei calmo. Però ho suonato gli archi come se fosse una batteria. Esattamente, hai suonato gli archi come fosse una batteria. Senti Francesco, posso fare una richiesta? Assolutamente. Vabbè, magari il riff, ma c'è una canzone sulla pur che io divento pazzo, mi piace un casino. Ed è Lost World of Forgiveness, quella che avete fatto con Lione, Fado Lione. Ah, sì. Ce l'hai, almeno un riff così tanto per far sentire sì, sì, io sì, divento veramente matto, ogni tanto me la metto anche in bacheca perché è troppo bella. Ma questa è fuori... Non importa. Com'è che faccio il sisio? Non questa, questa chitarra, ma non, si deve, Francesco non si deve tagliare, se Michele vuole andare avanti va avanti, no, so che comunque la radio ha dei tempi e quindi beh, sai, qui i tempi ci sono, si allora possono... vai, andiamo avanti. Ci sono sì i tempi. L'avete fatto un momento, canzone, questa. Un forse un vostro simbolo quasi, insomma, quando si parla di Teodasia, questa è una delle canzoni che avete più... fatto gotica questa qua, secondo me, in questo momento. Sì, l'avete fatta leggermente gotica. Non so, forse è la voce di Giulia che la sposta su, visto che lei aveva un ascendente musicale. O forse il suono di archi sbagliato che mi può darsi che sia anche quello. Vabbè, comunque questa faceva parte del disco precedente. Allora, adesso c'è in scaletta, così vi faccio anche riposare, se, a meno che non volete suonare ancora, volete fare qualcosa dal vivo o volete ascoltare qualcosa dal disco? No, no, facciamo dal vivo, dai. Dal vivo, vabbè, perfetto. Cosa volete far ascoltare? Close Call. Sì. Dai. Tutto assolutamente in diretta, stanno sistemando sì. Stai scegliendo i sogni. Prego. Twisted spaces inside your mind. Come around again. There are shiny daisies around our times. This time I'm gone. not your fears, I want it's enough you can. Allora, due cose da dire. Questo è il piano che dà l'intro a tutto quanto. Il piano è una ballad con il piano, ma non è propriamente una ballad. Grazie al piano poi si sviluppa un discorso di intreccio fra le due chitarre acustiche ed il basso, che consente a Giulia di venire fuori. Il basso e le due chitarre acustiche danno proprio il tappeto sonoro cui si inserisce la voce di Giulia. Questo è un pezzo folk, secondo me. Un folk che occhieggia giustamente il pop, a mio parere. Caro Francesco, visto che l'hai creato te, adesso mi dici il tuo, la tua idea di questo pezzo. Chiaramente è una versione assolutamente live stasera, quindi in acustico, dobbiamo sottolineare questo, che è fondamentale, perché l'acusticità cambia il metro delle cose. Sì. Allora, io, siccome avevamo parlato appunto di questo brano anche l'altra volta che eravamo venuti, volevo raccontarti su questo brano un aneddoto. Vai, vai. Che non so neanche se sanno i ragazzi. Bene. Praticamente all'inizio, cioè tipo quando l'ho scritto, erano tipo due mega pezzoni che poi in seguito ho diviso e ho tratto due canzoni che sono Close Call e Powerful Life, se non vado errato, insomma una di quella che non mi piace, no. Come non ti piace? No, no. Clarion Call, sì. No, quella ti deve piacere tutto i pezzi, sì, che scrivi. Sì, no, mi piace. Assolutamente. No, Clarion Call e Close Call erano due brani all'inizio, e infatti sono anche negli stessi accordi, solo che li avevo appunto spezzati perché erano due tempi diversi, due modi diversi di fare. Ed era un mega brano che si chiamava The Bright Side of the Moon. Ah, perfetto. molto The Bright Side of the Moon. Mi ricordo vagamente qualcosa. Beh, di 40 anni fa, perché è proprio il 40esimo quest'anno. Io ero molto ignorante all'epoca e non sapevo neanche che i Pink Floyd avevano fatto Dark Side of the Moon. Cioè, pensavo che Dark Side of the Moon fosse un disco di un'altra band, ma ero molto ignorante all'epoca. Ma forse l'hai sentita in un'altra band, fatta da un'altra band? No, sono tante band, cioè, anche meta, che hanno ripreso The Dark Side of the Moon. Ah, sì. Allora, alla loro maniera. No, sai, conosci i dischi tutto quanto. Solamente che appunto io mi piaceva il nome proprio Bright Side of the Moon. E in realtà dopo ho detto, no, aspetta. Ci un fermiamo. Conto è toccare certe band, un conto è proprio come... Toccare i Pink. Sì, capito. Quindi hai deciso. E invece è venuto fuori ancora meglio, perché è venuto fuori una ballad che ha avuto un bel successo. Anche il fatto di Cristina D'Avena, che ce l'ha citata questa come top 10 delle canzoni più belle di sempre. Non so sapevate? Che l'ho letto da qualche parte. È stato veramente una cosa molto emozionante per me, perché puoi immaginare Cristina D'Avena da bambino. Ero sempre dai miei nonni, che saluto, che mi stanno ascoltando i miei nonni. Va bene, salutiamo i nonni. Se non sono già andati a dormire, che no, sono le 10, spero di no. Saluto i miei nonni appunto perché ascoltavo, cioè guardavo i cartoni animati dai miei nonni da piccolo e con la sonora di Cristina D'Avena, esatto, che continua a fare ste robe nonostante sì, tutto. Insomma, lei è un mito nell'ambito. Sì, assolutamente. Quindi quando ho avuto questo piccolo successo personale, anche perché eravamo in fianco a nomi come Michael Jackson, come Lucio Dalla, come Elisa e tante altre cose italiane. Bene. Complimenti anche da Stefano Pivato. Grande! Ecco, Stefano Pivato. Allora, attenzione, infatti, volevamo appunto dire alla fine queste cose qua. Comunque, troverete dentro al disco di Reflection tutte le informazioni, la produzione, eccetera, eccetera. Il nostro ingegnere fonico di questo album è proprio lui, è Stefano Pivato, del No Shoes Studio di Arino di Dolo. E lo vogliamo tanto salutare. E Reflection è nato proprio lì. Il primo demo l'avevo sempre registrato prima, il primo Reflection, diciamo, l'avevo sempre registrato da lui in studio. E dopo siamo ritornati e abbiamo fatto un grandissimo lavoro. È stato masterizzato poi da Mika Giusila, del grandissimo masterizzatore di Nightwish, band Stratovarius, quindi insomma abbiamo fatto veramente un gran lavoro nonostante i tempi molto brevi e così, e insomma saluto a lui, che penso ci sia anche Andrea con lui, eccetera. Io ne approfitto per salutare anche un tuo amico che probabilmente è all'ascolto, un vostro amico insomma, che credo conoscerai bene. Vai. Ed è Giulio Farigliosi. Sì, assolutamente, assolutamente, grandissimo Giulio. Lo saluto caramente, domani sera devo trovarmi. Bene, perfetto. È una grande persona, veramente, un grande personaggio. Assolutamente, è stato anche essenziale per il Teodosia. All'inizio. E ancora adesso collabora. Ci ha fatto scuola, veramente, su tutto il fronte elettronico. Certo. Bene. Cosa volete fare? Volete dal vivo o studio? Guarda, adesso studio. Studio. Adesso ci facciamo sentire le potenzialità del No Show Studio. Sì. Allora, due parti. La prima e la seconda, il perché. Ma ne ascoltiamo la prima, poi ne parliamo, come vuoi. Sì. Si chiama Land of Memories. Sì. Parte prima, adesso sentiamo. Sì. Prima. Va benissimo, facciamo. No, stavo pensando se tipo. Perché la seconda ha un intramezzo molto lungo di una specie di sibilo, di un suono. Mm-hmm. Quindi magari in quel momento si può parlargli sopra e dopo. Ma non si deve mai parlare sui pezzi. Che devi tagliare? Perché devi parlare sui pezzi? Francesco, devi parlare sui pezzi. No, non. Allora, quando arriveremo in quel punto capirete che c'è un problema. Ah, ho capito. quando capirete che c'è un sibilo continuo, eccetera, potrei. Beh, all'inizio dici? No, all'inizio della parte 2. Parte 2. Sì. Ok. Vabbè, stiamo comunque scherzando, ovviamente. Sì. No, ma sono belle ste cose. Anche Umberto Tognon vi fa i suoi complimenti. Vi tanti saluti, grandissimo. Allora, mi è arrivato adesso il messaggio. Va bene, allora ci ascoltiamo la parte 1, la prima parte di Land of Memories, Teodosia. Blu Radio Veneto. SMS 346 2320 033. Blu Time. Blu Time Live. Blu Time. Live. Al di là del titolo Terra di Memorie, io il testo non l'ho sentito bene, però dal punto di vista musicale, Terra di Memorie si può ritornare indietro nel tempo all'inizio di carriera dei Theodas, dello sviluppo musicale. Questo è assolutamente un pezzo prog, io l'ho sentito molto prog, con finale, con un inizio un po' gothic a mio parere, ma molto prog, decisamente dilatato al massimo, potente, sinfonico, epico, prog. Cosa dici? Ci sono, Giulia? Diverse influenze, ma appunto, cioè, vabbè, io questo CD non l'ho fatto. Non l'hai fatto. Parlerò da ascoltatrice. Da ascoltatrice. Anche io. E secondo me è proprio uno dei punti di forza di questo CD, la commistione di dei diversi vari momenti. vari generi, varie influenze. E vari colori anche. Sì, musicali. Esatto. Sì. E quindi è un CD molto variegato, che non annoia, che ha i momenti di tranquillità, ma anche appunto momenti di grande energia. Io appunto ho già fatto appunto dei concerti insieme a loro, gli ho coperto delle date, quindi mi è già capitato di dover interpretare e cantare queste canzoni. Come fai a interpretare Land of Memories? Come faccio? Parte prima. Canta. No, ho capito questo, ma con quale predisposizione? Cioè, a me un pezzo così mi smuove dentro proprio, cioè io sento proprio... Quando salgo sul palco e iniziano canzoni come queste, cioè io sento proprio adrenalina pura, energia pura, un'esplosione che mi pervade. E certo. Quindi do tutta me stessa, i ragazzi lo sanno, e quindi corro da una parte all'altra. Cari ascoltatori, voi non avete visto Giulia, però si muoveva, gesticolava anche davanti al microfono. Non abbiamo le telecamere stasera, ma gesticolava. Ogni tanto mi sedano i ragazzi, ma ho bisogno di essere tranquillizzata. Ma è giusto che sia così, devi gesticolare, devi muovere, perché dai, la partecipazione al pezzo non riesco, soprattutto quando una cosa mi piace, cioè è male quando sto ferma e non mi muovo, comincio a guardarmi intorno, perché allora vuol dire che non sento quel brivido lungo la schiena e quella cosa proprio che mi manda in estasi, ecco. Più mi muovo, più vuol dire che la cosa mi piace. La seconda parte? E poi ne parliamo. Sì, Francesco, dovevi dire una cosa a proposito di questa parte prima. Sì, avevo detto che avevo un'altra delle mie storie. Beh, questa qui è, diciamo, un po' il cuore iniziale del progetto, questa canzone qua. Memories. Sì. Quando l'abbiamo fatta per la prima volta anche col demo, eccetera, è stata la canzone che ha unito un po' tutti. È stata la canzone con cui ci siamo uniti a Fox, a Nicola. È stata la canzone che ci siamo uniti ad Andrea, produttore di Upwards e del resto, e è stata la canzone che ha tornato, insomma, è stata un po' quella che ha unito tutti. Esatto, quella che è piaciuta a Giulia, insomma, avanti così. Facciamo sentire adesso la parte 2, che è una super epicata, bellissima. Mi piace l'inizio, è brevissima, durerà 30 super epicata. Super epicata. Franceschese. Vabbè, questa mi giunge nuovo. Bella. Vabbè, ascoltiamo la parte 2. Allora. Sì. We'll be right back. Dal nuovo disco dei Teodasia, questa era Land of the Memories parte 2. Dovevi aggiungere qualcos'altro tu, Francesco? No, questa qua è la super epicata. Sì. Cioè, no, in realtà sì, ci ha scherzato, però effettivamente noi usiamo questa outro, si dice, uscita? Out. Può dire. Sì. E come è appunto uscita dal palco. Ah, cioè, finite proprio, con questo praticamente. Finiamo con questo brano. E usciamo. Con che cosa cominciate invece? E di solito iniziamo con Eulogy di Upwards. Ah. Quindi avete le vostre ben definite canzoni. Sì, insomma, sì, perché Eulogy appunto inizia con un piano, con i cori e va sempre più. E dopo c'è la parte. E quindi inizia a diventare molto. Com'è quella parte? È quella. È bella movimentata e dopo c'è tutta l'atmosferica, sì, tutta la parte atmosferica e parte con My Minotaur e tutta la scaletta, ecco, di solito i nostri concerti sono così. Senti, io direi di far ascoltare anche il pezzo che è stato il singolo. Sì. Però prima di parlare di questo singolo, che poi magari ci saluteremo con l'ultima canzone dal vivo, so che voi tra poco partite per una bella e lunga tournée. Che anche l'anno scorso mi sembra ne avete fatta una simile. No, non proprio simile, perché non siamo ancora usciti dall'Europa, però. Dall'Italia. Dall'Italia. Sì, dall'Italia. Ciò che mi ricordo quando siete venuti qui, avete detto che dovevate fare questa tournée. Sì. Invece quest'anno andate proprio. Sì, quest'anno assolutamente. Andiamo in Europa, andiamo ad aprire Tavia, l'ex cantante di Nightwish, che è. Come posso descriverla guardando Francesco e la Giulia, non lo so, è tipo la loro musicista per antonomasia, diciamo. Tutto è partito con i Nightwish, con la musica lì anche. Andate in Finlandia? No, no, andiamo in Germania, Austria, Svizzera. Beh, non è mica tanto distante da Germania, chiaramente. Magari non siamo in Finlandia. Finlandia sarebbe un ottimo trampolino di lancio, visto che amate il metal finlandese. Sì. Adesso sta arrivando Renato, non so, devo chiedere a Renato se ama anche lui il metal finlandese. Ma può essere. Può darsi. In ogni caso, quindi fate questa tournée in Germania. Germania è un posto molto importante per le band musicalmente simili alla vostra, che il prog è in Germania, prog è non soltanto il prog, è proprio la culla. Sì, in generale la musica in Germania funziona, noi siamo molto contenti di andare lì, soprattutto prima di lei, è una grossissima soddisfazione, siamo veramente contentissimi, abbiamo lavorato molto e è una soddisfazione sia professionale ma anche personale, come dicevo, perché è proprio lei. Lei chi è lei? Dai, una chiave di volta. Lei è la cantante dei Nightwish, è la voce per antonomasia del nostro genere in qualche modo. Ok, capito. O comunque fa parte. D'origine lei è tedesca? No, lei è finlandese. Ecco, per quello citavo i finlandesi. Ma infatti pensavo lo sapessi, come tanti in Finlandia. No, purtroppo sono leggermente ignorante, nel senso che ignoro il metal finlandese, però adesso me l'hai fatto scoprire, ecco. C'è sempre tempo, certo. Chiaramente. E insomma, partiamo il 26 di ottobre, sono 7 date. Bello, 7 date importanti. Fino al 4 di novembre. È molto significativo fare 7 date in Germania. Vi apriranno molti mercati, secondo me. È il motivo per cui andiamo. Certo. Sento di sottofondo qualcosa di sublime. Scusate l'interruzione. Emozionati. Siete tutti emozionati. Scusa, non vorrei interrompere la vostra emozione, ma è la cantante prima di questo. Questo. Bene, bene. Va bene, va bene. Sentiamo allora il pezzo, cosa dici? Sì, no, c'è da far ascoltare il singolo che è uscito. Quando è uscito? A marzo, avete detto? Aprile. Aprile. Che avete fatto anche il video, insomma. Sì. Sì. Di questo tuo esperimento, chiamiamolo così. Questa follia. Sound experiment. Questa follia. Yeah. Stay, Teodasia. Blue Time. Blue Time Live. Blue Time. Live. Qui mi avete steso, cioè io ho messo sul disco nuovo vostro, ho messo su questa canzone, ero così, bloccato. È un intro. È un intro. Io un intro... a questa introduzione ci tengo a dire che mi sono ispirato a From Hell to Heaven, l'opera di Andrea Bezzon, e che quando io l'ho vista la prima volta mi ha colpito anche quasi di più dei Nightwish e tutti i gruppi che mi piacevano, per, soprattutto per le sue atmosfere, la sua orchestra, eccetera, eccetera. Fatalità, in quel periodo eravamo in studio a fare il demo con i Teodasia e serviva un'atmosfera e mi ha aiutato tantissimo From Hell to Heaven nella stesura di questo brano. Certo. Maurizio, le tue considerazioni sul pezzo di prima? Io la musica dance non fa parte del mio DNA. Io apprezzo molto che la musica dance scompare è diventato un abbiamo pezzo fatto anche di, qui però negli anni 70-80 sì, lo so, con sì, i Keller. Sì, con i Keller, esattamente, è diventato un pezzo di Teodasia. Io rispetto assolutamente chi ama la musica dance, ripeto, non è nel mio DNA. Io apprezzo di più la versione, possiamo dire così, Francesco, sì, sì, di Teodasia. Una versione pazza secondo te, perché sì, tu hai preso un pezzo dance, l'hai rivoltato e l'hai fatto un pezzo di Teodasia, tra il prog, il rock e l'hard, o il metal finlandese come ama il nostro chitarrista qui davanti. È un'altra cosa. Chi conosceva Stay? Io lo conoscevo. Io conoscevo un altro Stay di Jackson Browne qualche anno prima. È completamente prima. Diversa, Maurizio. Ma è sempre Stay lo stesso. Si chiama Stay lo stesso. Sì. È un'altra cosa. E tu lo conoscevi, ma chi conosceva Stay oltre a te? Che cosa ne ha pensato della tua versione? No, abbiamo avuto dei commenti molto, molto positivi. E diciamo che gli unici commenti negativi che sono arrivati sono stati da parte dei fan accaniti dell'epoca. Dei fan di DJ Sash, no? DJ Sash. Però il DJ Sash stesso è stato così un grande da scrivere appunto una mail dove ha pubblicato il fatto che voi l'avete rifatta? Sì, no, è che, che in realtà ci ha scritto approvando, insomma, non badate ai fan della dance, ai nostalgici della dance, non capiscono niente di rock, quindi perfetto. Quei due o tre commenti negativi sono stati proprio sommersi dagli altri positivi, addirittura dal compositore stesso della canzone, quindi perfetto, quindi è approvato, è stato approvato. In realtà in YouTube abbiamo avuto gente che ha detto che bel esperimento, questo qua fa vedere come un brano dance può essere rivisto in altre maniere, altre maniere, eccetera, eccetera. È piaciuta molto la parte sonora, è piaciuta molto. Certo, certo. Non montarti la testa a te, però c'è un bravissima Giulia, sì. Sto scherzando ovviamente, mi fa molto piacere leggere questo messaggio, bravissima Giulia, poi ci saluta noi, Blu Radio Veneto, ed è Sandro Scianti. Ah sì, grazie Sandro, un bacione immenso, poi grazie. Non cambiare canale che tra poco ci delizierà con l'ultima canzone, sì, che già mi hanno anticipato che cos'è, che sì, è una cosa che adoro e che amo molto. Allora, siamo arrivati quasi alla fine, però insomma Renato non vedo ancora che ci arriva. Allora, se vogliamo dire due paroline sul disco, quando uscirà, dove si troverà, cosa, che distribuzione, e anche i vostri concerti, il sito, chi parla? Nicola? Sì. Parla Nicola, che hai parlato allora, pochissimo. Vai Nicola, vai. Bene, allora il disco uscirà un giorno. Un giorno. No, nel senso che stiamo ancora cercando la data precisa, comunque sarà sicuramente o alla fine di questo mese o all'inizio del prossimo, quindi siamo proprio addirittura d'arrivo. E per quanto riguarda invece le prossime date, beh, ovviamente se volete seguirci, ascoltare la nostra musica, tutto il nostro materiale, c'è il sito ufficiale www.teodasia.com. La nostra pagina ufficiale Facebook, cercate Teodasia e la trovate senza nessun problema, il canale YouTube, quindi insomma di carne al fuoco ce n'è tanta. Per quanto riguarda invece le prossime date, in questo mese, il 21, saremo a Pederobba all'Old Saloon, poi saremo il 27 settembre, aspetta che è difficile, a Santa Maria di Sala al Napoleon Music Pub, il 19 ottobre saremo al Dakota di Vigonza, se non sbaglio. Poi si parte per il tour, come abbiamo detto, dal 26 al 4. E poi praticamente non stiamo più fermi, perché continueremo a suonare. E poi non vi fermerete, non me le dovete ricordo. Fare anche il disco nuovo, se non sbaglio. Ecco, parliamone. Parliamone proprio. No. Il prossimo disco, chi ci dà qualche delucidazione? Sempre sullo stesso vostro stile? Permetto. Il prossimo disco, se Dio ci permette di farlo, sarà una cosa pazzesca. Wow. Nel senso che vogliamo superare noi stessi. E non esce se non è una cosa pazzesca. Cioè, se non è proprio al top. Il Black Album, non. No, scherzo. Cerchiamo di fare il possibile, dai. Sì, adesso non stiamo. Per... Sì, no, ma. Però hai in mente, se non mi dicevi prima. Guarda, Upwards. In tante cose, Reflection, in completamente altre cose, mi hanno fatto capire che c'è la possibilità di fare, non dico un disco perfetto, ma un buonissimo, un gran lavoro, anche perché ho maturato alcune cose compositive che potrebbero, non lo so, sento che, sento, ho già scritto i brani, li stiamo già lavorando, li stiamo producendo, C'è tanta carne al fuoco, ecco, diciamo. Però appunto non voglio stare qui a dire è una cosa e poi no, ecco. Però mi voglio anche auto un po' casare, un po' autosuggestionare, no? Voglio è comunque la ricerca di fame, di voglia di riuscire a fare. È bello, sai, disco, questo, è bello, sempre voglia di andare avanti, scoprire cose nuove, Io ammetto anche che con i Teodasia abbiamo passato dei momenti molto difficili e... Ma tutte le band, tutte le band succede, non è mica una novità. Ci sono gli alti e i bassi, ma soprattutto è importante che ci siano più alti che bassi, secondo me. Quindi... Siamo arrivati alla fine, perché è arrivato anche Renato in questo momento. Perfetto. Quindi lasciamo lo spazio alla heavy metal, questa sera classico. Classico. Heavy metal classico. Intanto io voglio ringraziare Fabio Compagno alla chitarra. Ciao a tutti, grazie mille, e soprattutto a Agostino e Maurizio. Grazie di nuovo a te, Fabio. Ci hanno voluto. E vi vorremmo anche per il prossimo, non vi preoccupate. Bisogna. Michele Munari alle tastiere, che poi in realtà sarebbe il chitarrista stasera. Sì, con l'ovation, importante. Stasera c'è l'ovation. Sì, ovazione. Se no non avrei neanche suonato. Appunto. Grazie a tutti, e appunto anche a voi, soprattutto. Che ci avete voluto ovation un'altra volta. Grazie a Michele, grazie. Dai. Anche a Nicola Falsone, il basso. Ciao, tu sei proprio mille. Bassista in tutto stasera e anche nella band. No, sì. Diciamo sì, che sì. C'è anche un'altra cosa, lui è anche seconda voce dal prossimo concerto in poi. Ma io sono una seconda voce dal prossimo concerto, certo. Da almeno due anni. però dal prossimo per davvero. Allora, e poi vabbè, il leader, frontman, come ti posso chiamare? Francesco Gozzo, ecco, va bene. Sì, che sì. Sarebbe il batterista, sì. Compositore della band, ma questa sera è al tastiere. Guarda, io veramente vi ringrazio, perché ogni volta che vengo trovo veramente, cioè, un'introspezione nell'anima, diciamo, della band. Come voi non la fa nessuno, è una cosa bellissima, è un'emozione venire qua e parlare appunto dei brani dei Teodasia, perché vedete, è molto importante questo è proprio il fulcro, è la musica il fulcro, non è il business, non sono i video, i vestiti e tutto, niente, l'importante è l'anima del gruppo, l'anima, qualcosa da dire, qualcosa da dire, ci vuole il rispetto, per le cose. Anche io sono, cioè, anche per la mia follia devo avere anch'io rispetto, cioè bisogna avere rispetto di tutte le cose, come di tutti noi l'uno con l'altro e delle proprie capacità, cioè. Quindi ci tenevo anche a dire questa cosa qua, perché ogni volta che veniamo qua questi, si parla sempre di questi argomenti per me è molto importante. Ti ringrazio di queste parole, perché ci fanno onore veramente di cuore. Tu sei un amico, insomma, quindi certo, ancora di più, ancora di più. So che sei molto molto sincero. E poi, insomma, la vocalista femminile, che sì. Insomma, questa splendore di ragazza. È troppo buona. Che, finalmente ho conosciuto anche di persona, ma soprattutto complimenti per la voce. Grazie Giulia. Infinite, io vi ringrazio davvero tantissimo. E mi sono trovata benissimo e per me era la prima volta in radio, lo dico molto umilmente, e mi sono trovata davvero bene, non un attimo di ansia, cioè emozione, ma emozione positiva. Quindi vi ringrazio voi tantissimo per avermi messo a mio agio e per questa splendida serata e chiacchierata insieme, è stato molto molto bello. Ma tanto con te ci rivediamo presto. Sì, giusto? Sicuramente. Stay tuned. Sì, esatto. Allora, è inutile, ve lo ridico, al prossimo disco vi riaspettiamo qui, ovviamente con la presentazione, se volete venire anche la prossima volta in anteprima, a noi non è che ci dispiace. Assolutamente. È un grande onore. Assolutamente. E noi abbiamo anche una sorpresina per i fan a Natale, ma ne parleremo, magari ci sentiamo, certo. Abbiamo grandi uscite, a breve abbiamo grandi idee, insomma state connessi ai nostri portali che ne vedrete delle belle a breve. E adesso state connessi perché c'è l'ultima canzone, che ovviamente è la ballata storica della band, dei Deodasia, cioè Aurora, che è una splendida canzone. Però qui c'è alle tastiere, c'è effettivamente Michele che si siede in questo preciso momento. Noi vi diamo l'appuntamento a giovedì prossimo con Chiara Geri e Andrea Barsali per quanto riguarda una musica, un duo insomma completamente diverso, chitarra e voce solamente, quindi una musica totalmente diversa, sempre qui alle 21 su Blu Radio Veneto con Agostino e con Maurizio Calzavalla. Tu quando ci sarai invece? Ci sarò martedì con Flavio, mercoledì da solo con Sergio e seguite il nostro sito, gli appuntamenti, grazie, curati tutti da Alberto Prisco, escluso il tuo. Seguite il nostro sito, quindi troverete il meglio di Blu Radio Vento, come tutti i programmi nostri, chiaramente. Ciao ragazzi, e ancora grazie. Ciao, grazie mille. Ciao. Grazie. Ciao. Oh, Being on.